tribunale in seconda istanza su un appello che era stato depositato dopo l'ennesimo rigetto, per la sesta volta che si chiedeva la modifica degli arresti domiciliari, la Corte d'Appello, questo tribunale in seconda istanza, ha accolto le richieste avanzate dalla difesa, in parte le ha accolte, concedendo finalmente una misura meno afflittiva come quella degli arresti domiciliari. È stata fatta una valutazione diversa rispetto al giudice di primo grado in relazione al pericolo di fuga, è stato considerato affievolito in considerazione di alcuni elementi nuovi che erano stati posti al giudice nel corso dell'ultima istanza che era stata presentata all'ultima udienza di marzo, in relazione soprattutto alla possibilità di avere degli arresti domiciliari a Budapest, la possibilità quindi di essere stato trovato un domicilio in quella città e quindi l'assoluta garanzia che Ilaria non si vuole sottrarre al procedimento davanti al tribunale, come ha sempre dichiarato. E inoltre è stata fatta una valutazione sempre da questo tribunale in seconda istanza, una specie di corte d'appello, in relazione al buon comportamento che ha avuto Ilaria durante questi mesi di detenzione in carcere e anche durante il processo. Questo ha determinato quindi questa considerazione in merito all'affievolimento delle misure, delle esigenze cautelari, e la possibilità quindi di concedere degli arresti domiciliari, che comunque è una misura che a mio parere, ma a parere dell'intero collegio difensivo, non trova comunque giustificazione dopo quasi 16 mesi di detenzione che è già stata costretta a subire e in quelle condizioni che più volte sono state denunciate dalla signora Salis. È comunque una misura molto severa, è stata disposta con l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, quindi cosiddetto braccialetto elettronico, e tramite anche la condizione del versamento di un deposito cauzionale, quindi un deposito di una somma di denaro a garanzia del rispetto della misura, che poi è il deposito di una somma piuttosto ingente, stiamo parlando di 16 milioni di fiorini, che sono circa 40.000 euro, quindi solo dopo il versamento di questa somma di denaro si potrà dare esecuzione al cambio della misura e quindi al passaggio agli arresti domiciliari, quindi una misura molto severa che non trova giustificazione in questa fase processuale. Teniamo poi in considerazione un ulteriore elemento, che c'è uno strano calcolo in Ungheria per quanto riguarda le misure diverse dal carcere. Un giorno di arresti domiciliari vale un quinto rispetto a un giorno trascorso in custodia cautelare in carcere, quindi questo è anche un altro elemento da tenere in valutazione sulla iniquità del procedimento in generale ungherese e della mancanza del riconoscimento dei diritti fondamentali, della sussistenza di un giusto processo in Ungheria, cosa che Ilaria ha sempre denunciato. Quindi oggi ha vinto Ilaria una battaglia, perché finalmente esce da questo incubo e da queste condizioni detentive inumane, ma non è finito, il processo deve ancora iniziare, è un processo che si segnala per essere iniquo, per come viene condotto e per le modalità in cui è costretta a subirlo Ilaria, faccio riferimento ad esempio alle catene, ai pozzi, eccetera. Quindi la battaglia deve continuare, è una battaglia che poi Ilaria non vuole fare solo per sé, ma per tutte le persone che sono sottoposte a procedimenti simili, perché in Ungheria, ma in tutta Europa, vengano riconosciuti i diritti fondamentali delle persone che sono sottoposte a un procedimento penale.